Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Superstiti, ora caccia senza quartiere ai mercanti di morte. Legge di assassini! Immigrazione parla Letta, il giorno dopo le avete sentite le contestazioni al vice premier Alfano. Se l'Europa resta a guardare, dice il presidente del Consiglio, muore e perde la sua anima. Dopodomani il Consiglio europeo e dice ancora Letta, non accetteremo compromessi al ribasso. Legge di stabilità, il PDL verso la divisione, 24 senatori per il governo. Lo stesso Alfano dice, non è il Vangelo, possiamo cambiarla. I calcoli del Sole 24 Ore, la nuova tassa sui servizi comporterà esborsi maggiori rispetto a 2012 e 2013. Il caso Datagate esplode anche in Italia. Ieri avete sentito l'intervista a Claudio Fava, domani l'audizione del sottosegretario Minniti, tra poco ospite di Effetto Giorno, il presidente del Copasir. Nubifragio e danni nel Tiguglio, frane nello Spezzino, il maltempo colpisce la Liguria, salva una donna per miracolo, ma potrebbero esserci dei dispersi. Accusato di omicidio colposo, l'uomo che ha investito e ucciso una donna e suo figlio alla periferia milanese, investendoli, il processo, vista la giurisprudenza, potrebbe chiudersi con una soluzione. Il Milan questa sera la prova contro il Barcellona, Mario Balotelli è tra i convocati. Dunque, avete sentito il nostro audio di apertura dedicato alle contestazioni ricevute ieri dal vice premier Angelino Alfano nel giorno della commemorazione delle vittime del naufragio di Lampedusa. Torneremo tra un attimo sul tema immigrazione perché sarà al centro del Consiglio europeo. Questa mattina Letta ha riferito su questi temi alla Camera, però in apertura vogliamo andare a fare un punto sulla situazione del maltempo in Liguria. Ci colleghiamo con Andrea Ferro. Andrea, buongiorno. Buongiorno, un nubifragio violentissimo, una vera e propria bomba d'acqua, un'espressione Simone che da qualche anno in Liguria abbiamo detto e sentito tante volte. Si è abbattuta tra le 2 e le 3 della scorsa notte nella zona tra la riviera di Levante e l'entroterra. A Carasco è crollato il ponte sulla provinciale 225, un'auto è volata nel torrente sottostante lo Sturla, alla guida una donna di 36 anni che è stata trascinata per quasi 500 metri dall'onda di piena e poi è stata soccorsa dai vigili del fuoco sotto shock ma praticamente illesa. Un testimone ha parlato di un'altra auto, una vettura di color rosso, vista precipitare nello Sturla, ma di quest'auto non ci sono al momento tracce e finora nessuna denuncia di scomparsa è stata presentata. Le ricerche degli eventuali dispersi sono comunque in atto, i vigili del fuoco sommozzatori scandagliano il letto del torrente. Contemporaneamente, sotto una pioggia ora sottile, si spala fango in buona parte della valle Sturla, dove alcuni torrenti sono esondati. La situazione più critica a Mezzanego e Borzonasco, a cui nella notte l'acqua ha raggiunto il metro. L'erogazione del gas è sospesa in alcune zone, ci sono frazioni isolate, la viabilità in tilt, decine di frane e smottamenti. Disagi e danni anche nello Spezzino, l'Aurelia è rimasta interrotta all'altezza di Ricco del Golfo. E per il momento, Simone, è tutto, ti restituisco la linea. Ti ringrazio Andrea Ferro. Nel frattempo, come avete sentito, ho recuperato la voce dopo l'accesso di tosse. Più tardi, nel corso della trasmissione, andremo a sentire se le linee ci assisteranno, perché la situazione è difficile anche da questo punto di vista, Laura Remezzano, che è il sindaco di Carasco e l'assessore alla protezione civile della regione Liguria. Questo più avanti. Adesso ci occupiamo di immigrazione, perché è stata questa al centro di gran parte dell'intervento del presidente del Consiglio Enrico Letta in vista del Consiglio europeo che si aprirà dopodomani. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Simone chiama l'Europa alle proprie responsabilità ad essere più solidale, così come scritto nei trattati. Il Premier interviene alla Camera in vista del Consiglio UE del 24 e 25 novembre, che come sappiamo è in agenda l'emergenza immigrazione. Questo pomeriggio alle 16 parlerà invece al Senato. La Sicilia, ammonisce Letta, non è la periferia dell'Europa ma un suo avamposto e quindi l'Europa non può stare a guardare. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento in aula. L'Europa, per la sua stessa storia, per le sue più profonde e nobili ragioni fondative, non può stare a guardare. Se lo fa, l'Europa muore. Muore insieme alle centinaia di uomini, donne, bambini che perdono la loro vita mentre cercano un'occasione di salvezza o di riscatto lontani, drammaticamente lontani dalla propria casa e dal proprio paese. L'Unione è stata distante per troppi anni. La discussione giovedì e venerdì sarà decisiva per mettere sui binari giusti questa discussione e non accetteremo a Bruxelles compromessi al ribasso. Letta poi avverte: nessuno si illuda che queste tragedie siano occasionali o destinate a terminare con l'arrivo del cattivo tempo. Al Consiglio europeo di giovedì l'Italia chiederà dunque 4 impegni precisi: misure immediate per attuare il programma di sorveglianza Eurosur, il rafforzamento di Frontex, un piano d'azione per la gestione dell'emergenza migratoria e il dialogo con i paesi del Mediterraneo. A te, Simone. Grazie Alessandra Schepisi. Intanto le vicende politiche continuano ad annodarsi intorno alla manovra, in particolare all'interno del PDL. Anche Angelino Alfano difende la legge di stabilità e, come Enrico Letta, non esclude miglioramenti nel corso del suo iter parlamentare. Non è il Vangelo e ci sono grandi margini per intervenire, assicura il vice premier, che invita però la maggioranza ad avere un approccio più costruttivo sulla manovra, perché chi dice solo che non va bene vuol dire che intende far cadere il governo, spiega il segretario del Popolo delle Libertà. Un avvertimento che sembra rivolto principalmente al suo partito, dove proprio la manovra è diventata il nuovo terreno di scontro fra governisti e lealisti. Il PDL sembra sempre più diviso, ma Alfano nega di aver mai parlato di scissione e assicura invece di voler lavorare all'unità del partito attorno alla figura di Silvio Berlusconi. A ventilare l'ipotesi di una scissione sono però i 24 senatori del PDL a lui vicini e guidati da Formigoni, che ieri hanno preso carta e penna e con una lettera hanno detto basta agli attacchi distruttivi e permanenti che arrivano dal loro partito, un'iniziativa che ha subito alimentato nuove polemiche interne ed è stata definita gravissima dal falco Sandro Bondi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il punto di Stefano Folli. Certo, la legge di stabilità va migliorata dal Parlamento nei suoi articoli, anche perché ne ha bisogno, ma le linee di fondo non possono essere sconvolte, non ce lo possiamo permettere. Per cui essa sarà un banco di prova per tutti, per la capacità di leadership del Presidente del Consiglio, che in effetti dovrà dire molti no, più di quanti ne abbia detti finora. Per la credibilità della sinistra, quella di governo si intende, e qui va considerato in primo luogo Renzi, ormai prossimo segretario del PD, che non può più sfuggire alle scelte concrete anche quando queste si traducono in perdita di popolarità. E naturalmente per la destra. La lettera dei 24 senatori dissidenti del PDL che chiedono di rispettare gli impegni di governo indica una cosa: nel partito che fu di Berlusconi indietro non si torna e non è nemmeno pensabile una crisi di governo aperta sulla finanziaria. Quei 24 sono già in grado, in caso di rottura, di garantire al Senato una maggioranza all'esecutivo. Quindi l'unica strada è il buon senso generale. Si apre dunque la partita al Senato, ma uno dei temi al centro di questa discussione resta questo maledetto TASI, il tributo sui servizi indivisibili. E la questione resta: pagheremo di più o di meno rispetto alla somma tra IMU e TARES? Allora, Saverio Fossati del Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che oggi pubblica un'ampia analisi su questo tema, oltre che il quaderno dell'esperto risponde sulle agevolazioni casa. Saverio, pagheremo di più o di meno? E tendenzialmente si pagherà un po' di più, perché i conti del governo differiscono da quelli del Sole 24 Ore, perché si basano su questioni di gettito, no? Ma nel concreto noi sappiamo già cosa succederà, perché abbiamo fatto i conti, diciamo così, della serva, e in linea di massima anche sull'abitazione principale qualche decina di euro si pagherà in più, perché la TASI comunque è un tributo in più, e anche se non c'è più l'IMU sulle abitazioni principali, perché sulle altre abitazioni invece rimane, intendiamoci, anche se non c'è più l'IMU sull'abitazione principale, rimane comunque questa TASI che pesa, e pesa di più, tanto più che già l'IMU nel 2013 non c'era, è stato abrogato sulle abitazioni principali, e quindi quando si andrà al 2014 necessariamente si pagherà di più. L'unico, uno dei casi in cui si è pagato un po' di meno è stato appunto il 2013, con un trilocale di cui abbiamo fatto l'esempio, ha risparmiato 105 euro, ma appunto perché essendo una casa piuttosto grande l'IMU comunque nel 2012 l'aveva pagata. Allora Saverio, molto brevemente, tutti questi calcoli che avete fatto comunque non tengono conto delle addizionali comunali? No, perché c'erano già prima e continueranno a esserci. Le addizionali comunali IRPEF sono una costante e adesso attualmente sono stazionarie, potrebbero naturalmente e probabilmente aumenteranno, tra l'altro, ad aumentare l'aggravio, perché entra in scena, sono IRPEF, no? Finora non abbiamo parlato di IRPEF, che è un'imposta che c'era, c'è e ci sarà. Ma per esempio sulle seconde case, dopo un anno di assenza, ritorna l'IRPEF sulle seconde case sfitte collocate nella città in cui uno ha l'abitazione principale, e quindi questa è un'altra fonte di gettito e sarà un ulteriore aggravio per i proprietari che non riescono a affittare la casa. Grazie Saverio Fossati per questi chiarimenti. Noi adesso ritorniamo alla politica. Si è svolto questa mattina il video forum di Matteo Renzi su Repubblica TV. Il giochino non detto di qualcuno nel PD: tolgo da questo elenco il presidente del Consiglio Letta, e forzare su una legge elettorale di impianto proporzionalista, ha detto. Se si andasse a votare con un sistema proporzionale, ha aggiunto il sindaco di Firenze, ne andrebbe della dignità del PD. Ascoltiamo un suo intervento. Questo paese è un paese, me lo faccia dire, che oggi è privo di speranza. Perché? Perché la gente non ne può più, non ci crede più. Dare un meccanismo di legge elettorale serio significa consentire agli italiani di tornare a credere ai politici. Perché se il politico è serio e onesto, le cose le fa e il risultato arriva. Ma ha bisogno di una legge elettorale per farlo. Oggi, con le larghe intese, come fai a capire dove finisce il nostro ministero e inizia quello degli altri? È impossibile. Quindi le larghe intese sono una parentesi, per me sono una parentesi. Quindi quando si chiude la parentesi, maggioritario secco. E vi ricordo che, come sempre, nel corso della trasmissione ospiteremo una delle persone che a staffetta sta facendo il digiuno in solidarietà con Roberto Giachetti per la riforma della legge elettorale. Ne stiamo raccogliendo uno al giorno. La cronaca. Abuso dei mezzi di correzione, questa è l'accusa per un padre condannato dal Tribunale di Arezzo ad un mese di reclusione, sospesa con la condizionale per aver schiaffeggiato il figlio di 6 anni. Per l'episodio avvenuto nel 2009, l'uomo dovrà anche risarcire quella che ormai è l'ex moglie, che aveva fatto partire la denuncia. Un caso che sta facendo molto discutere. Secondo un'indagine Ipsos in Italia, un genitore su 4 ricorre a punizioni fisiche. Al microfono di Katia Caramelli, Raffaela Milano, direttore programmi Italia ed Europa di Save the Children. È fortemente diseducativo perché picchiare un bambino può portare innanzitutto dei danni fisici e psicologici anche seri, e quindi non va assolutamente sottovalutato il danno che anche uno schiaffo o comunque un comportamento umiliante nei confronti del bambino può poi avere per il suo futuro. È un modo di educare un bambino che poi porta a considerare anche da grandi la violenza come un metodo per risolvere i conflitti, quindi come Save the Children, in una nostra campagna noi diciamo uno schiaffo non finisce mai, proprio perché bisogna tenere in mente le conseguenze che magari da un atto di esasperazione dei genitori può poi essere invece un effetto duraturo per quanto riguarda la crescita di un bambino. Noi abbiamo fatto anche proprio delle indagini e devo dire questi comportamenti relativi a un'educazione violenta stanno gradualmente diminuendo, soprattutto è più chiaro ai giovani genitori che queste situazioni in cui magari si dà uno schiaffo non sono comportamenti educativi, possono essere tendenzialmente più legati a condizioni di esasperazione, di spavento degli stessi genitori. Restiamo sulla cronaca, tornando nel luogo dove una donna e suo figlio sono stati investiti e uccisi. Qui è impossibile attraversare, è una cosa assurda quella di attraversare da queste parti. Ci sono dei semafori, là non c'è semaforo perché non c'è, ma è pericoloso anche andare sotto, è tutto pericoloso. Stradone come illuminazione è abbastanza buona, solo che c'è un fatto che lì escono da quel tunnel e non si accorgono di quello che si trovano davanti. Sono passate quasi 48 ore dall'incidente di Famagosta. 3 le vite spezzate, quella di una madre e dei suoi 2 figli, uno di 4 anni, l'altro che sarebbe nato tra 2 mesi. Ma anche quella dell'uomo alla guida dell'auto che li ha investiti, ancora sotto shock, che continua a ripetere come un mantra: non li ho visti. Intanto il ragazzo, 28 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo plurimo. È risultato negativo all'alcol test, ma forse viaggiava ad una velocità maggiore del limite previsto, dicono gli inquirenti. E mentre il Codacons ha ricordato che da anni si batte per l'installazione dei 24 autovelox previsti in città e che Viale Famagosta è proprio uno dei punti dove dovrebbero essere collocati, la gente si chiede se sia stata l'incoscienza della madre o la disattenzione dell'automobilista a provocare l'incidente fatale. Penso che l'abbia fatto solo per la fretta di attraversare, anche perché anche se il sottopassaggio è pericoloso, a quell'ora il semaforo funzionava, quindi poteva attraversare dal semaforo. Il sottopassaggio di Famagosta secondo te è pericoloso? Assolutamente no. Io faccio degli orari in cui passo di qua alle 8:30 di sera ed è come se fossero le 12, mezzogiorno. Giorgia Vizeman, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Finirà probabilmente con una soluzione la vicenda giudiziaria del giovane che domenica sera a Milano ha investito e ucciso una mamma e i suoi due bambini mentre attraversavano imprudentemente un viale periferico. Guardando le sentenze della Cassazione negli ultimi anni su casi analoghi, si scopre che il motto secondo cui il pedone ha sempre ragione è solo un vecchio ricordo d'autoscuola. La giurisprudenza si è evoluta, andando a vedere sia il comportamento del pedone sia il tipo di strada. E, quando la strada è conformata in modo tale da escludere la presenza del pedone, ha attribuito a quest'ultimo una quota di colpa maggiore rispetto a quella del conducente, che non poteva prevedere di trovarsi davanti una persona a piedi. Dal punto di vista penale, poi, spesso sono gli stessi PM a chiedere e ottenere il proscioglimento del conducente indagato. Il principio è stato riconosciuto non solo in tratti con un esplicito divieto di circolazione per i pedoni, ma anche dove ci sono guardrail o altri ostacoli da scavalcare prima di poter camminare sulla carreggiata. Ma gli aspetti giuridici entrano in gioco solo dopo l'incidente. Per evitarlo è fondamentale che pedoni e guidatori si rendano conto di due cose. La prima, su molti viali con luci e alberi la visibilità è molto minore di ciò che si pensa. La seconda, in certi contesti anche l'acustica fa brutti scherzi, per cui un pedone può credere che non stia passando nessuno e decidere di attraversare nel momento più sbagliato. Maurizio Caprino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vi avevamo annunciato naturalmente nei titoli che avremmo parlato di Milan-Barcellona. C'è già in studio con me Dario Ricci. Dario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Immigrazione parla Letta, se l'Europa resta a guardare muore e perde la sua anima. Legge di stabilità Alfano, non è il Vangelo, possiamo cambiare. Il caso Datagate esplode anche in Italia, tra poco ospite di Effetto Giorno il presidente del Copasir. Vifragio e danni nel Tigullio, frane nello Spezzino, il maltempo colpisce la Liguria, potrebbero esserci dei dispersi. E apriamo questa seconda parte però, come annunciato, parlando di Milan-Barcellona. Allora Dario Ricci, che cosa dobbiamo aspettarci? Beh Simone, oggi 22 ottobre, no? Quindi 22-10, beh sono i numeri di Kakà, il 22 e 10 il Messi, quindi è scritto un po' nel calendario, anche nella smorfia, diciamo, quali potrebbero essere i protagonisti di questo Milan-Barcellona, ma occhio anche all'11, Neymar, lo vedremo per la prima volta in maglia blaugrana a San Siro, e anche al 45, no? Mario Balotelli, c'è il dubbio che Kakà possa partire dall'inizio, più sicuro invece il fatto che Balotelli partirà dalla panchina. Non uscirà invece il numero 9 sulla ruota di Marsiglia per quanto riguarda il Napoli, partenopei impegnati appunto al Velodrome contro l'Olympique. Il 9 di Higuain dovrebbe essere al massimo in panchina, almeno stando alle previsioni, titolare Pandev, e Benitez punta parecchio anche su quell'Amsic che grande campione, è vero, ma che se spesso sparisce nei match che contano davvero. Vedremo cosa succederà, in bocca al lupo ai milanisti. Nel frattempo saluto, cambiamo decisamente argomento, Renata Briano, assessore alla protezione civile della Liguria ed è nel comune di Borzonasca adesso. Buongiorno. Buongiorno a voi. Qual è la situazione? Ma noi questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo perché questa notte ci sono state queste celle temporalesche che si sono accanite proprio nel levante della nostra provincia, nell'entroterra di Chiavari. E qui a Borzonasca ci sono state parecchie frane, smottamenti, allagamenti, fango nei vari scantinati e anche in alcune abitazioni. La stessa cosa è successa a Mezzanego, che è un comune vicinissimo. E mentre a Carasco, che è un comune nella Val Fontana Buona, si è praticamente distrutto un ponte, è crollato. E allora, la fermo un attimo, Briano, la sì. Fermo un attimo perché ci ha raggiunto Laura Remezzano, che è sindaco di Carasco. Salve, sindaco. Buongiorno. Allora, come vanno le cose da voi in questo momento? Abbiamo letto, tra l'altro, che ci sarebbero dei dispersi. Le notizie non sono ancora molto chiare. Non sappiamo nemmeno da dove provengano, se sia proprio da Carasco la notizia. Che cosa allora, ci sa dire? Diciamo che è sopravvenuto l'elicottero che ha fatto una perlustrazione. Mi hanno riferito che 3 sommozzatori hanno percorso il tragitto, però senza esito. Il problema è che non è stata trovata neanche la macchina della persona che è stata ritrovata. Della persona che è stata salvata. Sì. Perché è stata salvata sì. Una persona, lo ricordiamo, una donna che è riuscita, insomma, dopo essere stata trascinata, come abbiamo raccontato all'inizio, per 500 metri lungo il fiume, almeno, è stata sì. almeno 500 metri, sì. è stata salvata. Allora, dite, dato che non è stata ritrovata questa macchina, può darsi che, vista la forza del fiume, sia andata anche l'altra nella direzione del mare. Briano, lei sa qualcosa da questo punto di vista? No, abbiamo le stesse notizie del sindaco, perché c'è stata una segnalazione orale in cui si diceva che le macchine finite nel fiume invece di una fossero due, però una persona si è salvata, dell'altra macchina non abbiamo notizie e non avevo neanche segnalazioni di dispersi, però chiaramente siamo ancora in una fase di accertamenti. Ci sono ancora comuni senza corrente, senza gas, eccetera, eccetera? Gradatamente la situazione si sta normalizzando, c'erano anche delle frazioni isolate che per esempio qui a Borzonasca piano piano, grazie anche al lavoro anche dei volontari, delle persone, si sono di nuovo collegate. E mi sembra che la situazione stia pian piano tornando alla normalità, anche se purtroppo per domani, a partire dalle 6 di domani mattina, è previsto di nuovo un peggioramento del tempo con un'allerta 1 proprio su queste zone della nostra regione. Remezzano, siete preoccupati, sì. immagino. Un pochino sì, perché come diceva l'assessore, stanno procedendo, diciamo, i lavori per la rimessa in pristino di tutte le utenze. È chiaro che non sappiamo quando riusciranno effettivamente a dare l'acqua, il gas, eccetera. Per adesso noi alcune persone le abbiamo mandate al ristorante, perché ci sembrava giusto non poter rientrare in casa, le abbiamo almeno fornito un pasto caldo. Per il resto confidiamo che procedano i lavori velocemente, che si ripristina al più presto la viabilità. Che il cielo sia clemente, immagino. La ringrazio. Purtroppo non ci sono buone notizie, purtroppo. La ringrazio Laura Remezzano, ringrazio Renata Briano per essere state con noi e saluto, passiamo ad un altro argomento ancora, la vicenda dell'NSA, la National Security Agency, e il fatto che milioni di telefonate dei cittadini francesi ha rivelato Le Monde, come ormai sapete, creando un caso diplomatico tra Parigi e Washington, sono state intercettate anche nei contenuti, quindi non solamente tabulati. Questo è un altro elemento importante. Giacomo Stucchi, presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. L'NSA spia le comunicazioni degli italiani e come? Ma noi abbiamo fatto una visita proprio alla loro sede principale tre settimane fa per essere precisi, e abbiamo posto questa domanda. È stato escluso il fatto che, diciamo così, delle intercettazioni a strascico fatte col programma PRISM potessero aver riguardato in modo indiscriminato cittadini italiani, perché ci è stato detto che ci sono dei filtri, degli accorgimenti che vengono messi per evitare che questo accada quando si tratta di paesi con cui si ha un certo vincolo. Mi scusi Stucchi, ma è così diverso questo vincolo di amicizia nostro da quello che gli Stati Uniti hanno con la Francia? No, aspetti, stavo arrivando proprio lì. Esatto. Naturalmente questo è quello che è stato risposto a noi, voglio dire, in quella sede. Quello che noi chiediamo al governo è di chiarire, alla luce di quello che è stato riportato come informazione sui giornali d'Oltralpe, se effettivamente l'informazione che ci è stata trasmessa è un'informazione veritiera per quanto riguarda i nostri concittadini. Questo dubbio è un dubbio più che legittimo e riteniamo che sia indispensabile che questa informazione arrivi il prima possibile. Mi scusi Stucchi, io non voglio essere, e anzi non è una domanda polemica, ma è una domanda vera, alla faccia del dubbio, nel senso che nel momento nel quale apprendo che nel giro di un mese sono state intercettate nella sostanza le comunicazioni di 70 milioni di cittadini francesi, compresi i testi degli SMS, le email, è difficile concludere che per l'Italia non sia avvenuto. Guardi, io non posso escludere nulla, però le posso dire che per quanto riguarda le informazioni fornite da Snowden, la documentazione che lo stesso ha fornito, diciamo così, ha reso pubblico, all'interno della stessa agenzia c'erano diciamo così, forti dubbi circa la reale veridicità delle stesse, quindi io ritengo che sia giusto affidarci ai canali ufficiali per poter fare una valutazione compiuta. Quindi lei dice che le informazioni di Snowden potrebbero essere false? Questa è una delle informazioni, è una delle cose che nelle discussioni sono uscite, una delle informazioni trasmesse potrebbero essere amplificate, potrebbero essere anche modificate, però sono tutte informazioni che noi riceviamo ma che devono essere, diciamo così, certificate da un rapporto point to point, quindi governo con governo, governo italiano, governo statunitense, per avere effettivamente il quadro definitivo di quello che è accaduto. Lei ritiene, Stucchi, che il governo si sia fatto sentire poco con il governo americano per avere chiarimenti su questa vicenda? Cioè ci voleva una maggiore durezza? Guardi, il momento in cui si è verificato, penso a luglio di quest'anno, il primo caso Snowden, quindi la prima uscita pubblica sulle informazioni che potevano essere delicate, sono sicuramente delicate in trattandosi di dati personali, ha portato il governo italiano, infatti specie il ministro Bonino, a chiedere spiegazioni al governo statunitense, che ha portato alla creazione di un gruppo di lavoro tra Unione Europea e Stati Uniti che deve verificare quello che è successo e deve verificare, diciamo così, se è successo qualcosa, quali possono essere gli accorgimenti da porre in essere per evitare che queste cose si ripetano. Tra l'altro è di ieri l'approvazione di un regolamento da parte dell'Unione che specifica quanto delicati siano determinati dati e quindi le modalità di trattamento degli stessi, i vincoli che ci devono essere per poterli, tra virgolette, utilizzare o lavorare. Quindi il governo italiano ha fatto sentire la sua voce, noi siamo andati di persona appunto a incontrare, ecco, massimi vertici. Io torno, per aver risposto Stucchi, io torno su questo perché ieri abbiamo avuto ospite il suo collega nel Copasir, Claudio Fava, il quale ci ha detto una cosa diversa, ci ha detto: guardate, i servizi americani ci hanno fatto capire abbastanza chiaramente che in realtà questo tipo di raccolta di informazioni avveniva, non solo, ma ci hanno anche detto che i servizi italiani erano perfettamente al corrente. No, assolutamente. In tutti gli incontri noi abbiamo avuto, diciamo così, la conferma che quanto i nostri servizi e il governo ha trasmesso come informazione al comitato, cioè il fatto che il governo non sapesse, quindi nemmeno i servizi nostri, dell'esistenza di un programma come il PRISM, in tutti gli incontri con le agenzie americane questo è stato acclarato, è stato confermato. Quindi dire che i nostri servizi sapessero non sapendolo il governo non è assolutamente corretto. Quindi Fava ha sbagliato, cioè ha detto una falsità in sostanza. Interpretazione, però detto di fronte a delle parole chiare in cui proprio nella sede dell'NSA ci è stato detto: signori, noi queste operazioni le abbiamo fatto le operazioni, naturalmente non intendo quelle sui cittadini italiani, noi raccogliamo informazioni sul dati di traffico e le lavoriamo, però nessuno in Italia era, quindi i governi, perché poi parliamo di Prodi, di Berlusconi, di Monti, in parte anche di Letta per pochi mesi, sono mai stati messi al corrente, quindi anche i servizi, di quello che stavamo facendo, o meglio del progetto, del programma che noi stavamo utilizzando. Grazie Giacomo Stucchi, presidente del Copasir, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Domani c'è l'audizione con Minniti, tra l'altro, esatto. e quindi forse avrete qualche chiarimento e forse non potrete dircelo. Di controllare e soprattutto di lavorare nell'interesse dei cittadini, quindi per ottenere la massima trasparenza possibile, tutelando dati che sono molto delicati, senza nessuna preclusione e soprattutto senza nessuna paura nei rapporti con i governi in generale. Grazie Stucchi, buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Immigrazione, fra due giorni il Consiglio europeo parla a Letta e dice: se l'Europa resta a guardare muore e perde la sua anima, non accetteremo compromessi al ribasso. Legge di stabilità, Alfano, non è il Vangelo, possiamo cambiare i calcoli del Sole 24 Ore, la nuova tassa sui servizi comporterà esborsi maggiori rispetto a 2012 e 2013. Renzi parla sul PD, dice sulla legge elettorale imporremo il maggioritario. Il caso Datagate esplode anche in Italia, il presidente del Copasir Stucchi a effetto giorno dice i nostri servizi non sapevano. Bifragio e danni nel Tigullio, frane nello Spezzino, il maltempo colpisce la Liguria, potrebbero esserci dei dispersi. E torniamo adesso, in apertura di questa terza parte di Effetto Giorno, a parlare della legge di stabilità. E però ne vogliamo parlare perché ieri vi abbiamo raccontato della decisione dei sindacati di proclamare 4 ore di sciopero. Oggi è emersa una posizione dissonante in merito a questa decisione e arriva dalla CISL Lombardia. Saluto il segretario Gigi Petteni, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che cosa dice lei? Che questo sciopero ormai è un'arma spuntata? Ma io credo che abbiamo sottoscritto a settembre un documento importante col mondo delle imprese a Genova che aveva dei contenuti forti, io credo di grandissima attualità, e io penso che dovremmo fare un lavoro forte, comune tra noi e il mondo delle imprese per cercare di imprimere una svolta. Per cui io credo che dobbiamo cercare nuove strade, costruire nuove alleanze e su questo costruire pressioni per fare dei cambiamenti. Ma me sembra una scorciatoia. Lo sciopero è una scorciatoia, dice lei? Lo sciopero è uno strumento importante che va utilizzato con grande attenzione in una fase di una crisi durissima, perché io capisco se dobbiamo fare uno sciopero per il lavoro pubblico che va meglio tutelato con il governo che è l'imprenditore, capisco meno se per realizzare degli obiettivi comuni, per far ripartire il paese, per abbassare le tasse sul lavoro e sugli investimenti, dovrei scioperare contro coloro che dovrebbero condividere con me questi obiettivi. Io credo che serva un po' di chiarezza, serve una bella discussione anche fra di noi, e forse serve anche un po' di innovazione, perché se da una parte Confindustria dice le cose non vanno così bene, dall'altra lo dicono i sindacati e poi ci si scontra insieme, forse dobbiamo innovare qualcosa dal punto di vista delle proposte e anche della capacità di farle camminare. Quindi può darsi che la CISL Lombardia a questo sciopero di 4 ore articolato su base territoriale, lo ricordiamo, non partecipi? Io in questo momento ritengo di sospendere questa decisione in attesa di un dibattito negli organismi, sosterrò con convinzione le mie posizioni e poi, come succede in democrazia, si sceglie la sintesi condivisa, ma credo che è il momento di dire quello che si pensa, soprattutto in una fase così difficile, in un territorio così complesso e per tutto quello che in questi anni abbiamo cercato di costruire con grande e grande responsabilità. Vorremmo continuare nel solco di questa importante tradizione. Un'ultima domanda che le voglio fare, Petteni, ma immagina qualcosa di diverso? Perché insomma, mi sembra di capire che l'attenzione si concentri appunto proprio sullo strumento nella fattispecie dello sciopero. Che cosa immagina lei? Avrà pensato ad un'alternativa allo sciopero? Sì, avrei pensato di condividere insieme con le imprese delle scelte forti sulla detassazione degli investimenti, sul cuneo fiscale, su tutti quei fattori che fanno scappare le imprese. Ma per esempio una manifestazione comune? Io penso che una manifestazione comune sarebbe una cosa importante. E qualora dovessimo fare uno sciopero su degli obiettivi condivisi, dovrei chiedere che una parte del reddito lo versino anche le imprese per rispondere a qualche bisogno sociale. Io credo che mettere a disposizione delle ore di lavoro per creare mutualismo, per dare risposta a chi ha bisogni e fare delle pressioni insieme per cambiare delle politiche dello sviluppo, io penso che sarebbe utile al Paese, sarebbe un bel esempio e farebbe capire che c'è una strada alternativa alla contrapposizione, che è l'unica strada che può indirizzare questo Paese nelle condizioni in cui si trova. In 10 secondi,

Allora Mario, non riusciamo a farla ascoltare tutta, mi dispiace per oggi, insomma, siamo andati un po' lunghi, colpa nostra. Un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto. Allora, non anche oggi purtroppo vi tocca e mi ribeccate anche alle 17 con Focus Economia. I contatti mi trovate su Twitter, Simone Spezia, c'è la pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio e poi appunto anche con Focus.